versione di Oscar Giannino. This is the end. Buon pomeriggio cari ascoltatori, in questo giovedì 8 di maggio e forse lo avete già sentito da qualche conduttore di trasmissione qui a Radio 24, siamo in diretta di studio di Milano, da Radio 24, 16:36, primi 13 secondi, oggi è nel calendario liturgico San Vittore il Moro. E devo dire che le procure se ne sono ricordate di questo San Vittore, perché oggi è una giornata di quelle che, come vogliamo chiamarlo, l'eterno ritorno vecchiano della storia italiana per gli arresti che sono avvenuti. Da una parte l'arresto a parte della dia di Reggio Emilia dell'onorevole Scajola per aver dato una mano alla latitanza dell'onorevole Matacena di Forza Italia, e dall'altra questa retata avvenuta stamattina a Milano di nuovi manager per appalti collegati a Expo alla regione Lombardia, quindi un altro schiaffo in faccia alla credibilità italiana, in faccia al mondo, e con nomi anche qui da eterno ritorno come Primo Greganti, il compagno G del vecchio PC, il senatore Grillo, ex Forza Italia prima ancora della Democrazia Cristiana. Quindi io non ci occupiamo di questo oggi, però l'invito che vorrei fare è comunque a chiamarci all'800240024 per dirci che cosa pensate di questi arresti sugli appalti eccetera. Cioè siamo sempre lì come 20 anni fa, non cambia mai niente, è la politica che non cambia, sono le regole che pure sono cambiate molte volte che non servono da sole a evitare il latrocinio su appalti e tangenti, bisogna rassegnarsi, non bisogna fare né grandi opere né eventi internazionali perché tanto c'è sempre la conferma che in Italia va sempre allo stesso modo con le cupole di chi pilota gli appalti e gli affari. Questa è una convinzione di molti, per esempio, che sono contrari alle grandi opere oramai per questa stessa ragione qua. Io penso che sia sbagliata, però certo è che ogni volta poi succede quello che oggi succede, e questo diciamo lo teniamo come tema di fondo per le vostre telefonate all'800240024, mentre l'ospite di oggi è un ospite direi classico di questa serie della versione di Oscar, in cui diamo voce a molti di voi che scrivono all'indirizzo la versione di Oscar @ radio24.it e che chiedono di sfogarsi, vogliamo mettere così, chiedono semplicemente di poter raccontare quello che succede nella loro vita professionale per dare un quadro di come le difficoltà siano terribili e restino terribili. Ricordatevi che ieri l'indicatore Confcommercio dei consumi attesta, mentre tutti dicono che la ripresa sta arrivando, è già cominciata e così via, attesta ancora una volta un calo di meno 0,1 sul mese precedente, ma meno 2,1% rispetto al 2013, che già è stato un anno disastroso col segno meno per i consumi. Quindi per il momento restiamo belli e che inchiodati, e quindi abbiamo un ospite che ci racconterà la sua esperienza professionale, le sue difficoltà nel far quadrare i conti di fronte ancora una volta alle solite scadenze obbligate dei contributi, delle imposte e così via, e lo fa dalla sua particolare esperienza professionale, che è quella di un agente di commercio. Quindi è ovvio che anche se altri agenti di commercio vorranno chiamarci, fatelo pure. È con noi Luca Baldi e io lo ringrazio di essere al telefono e aver accettato di parlare a voce, come aveva già fatto però per scritto. Buon pomeriggio Luca. Buon pomeriggio Giannino, la ringrazio dell'ospitalità. Allora, un saluto a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora, raccontiamo un secondo, perché lei partiva dai contributi che deve versare quest'anno rispetto al suo reddito. Lei che reddito ha realizzato? Allora, il mio, cioè ormai siamo in procinto di consegnare l'unico 2014 sul 2013, e ho realizzato un reddito post tasse di circa 10.000 euro. Sì. Questo è il mio reddito che ho maturato. Ed è tutto, di parte la mail che ho mandato è nata da quando ho visto i classici. Le cifre, per così dire. Esatto, le cifre dei fissi INPS da pagare, dove si vede l'ennesimo aumento che ci viene propinato, nonostante le difficoltà che lei chiama terribili, ma io direi andrei anche oltre, perché sono in peggioramento. Allora, riepiloghiamo i diversi contributi che lei deve pagare. si può partire, partiamo dall'INPS. L'INPS, noi liberi professionisti, abbiamo degli importi fissi da pagare, a prescindere dal reddito. Per il 2014 noi dovremo pagare 3.465 euro di fissi in 4 rate. Perché l'INPS ha pensato che questo calcolo viene fatto su un reddito presunto di 15.000 e passa euro, a prescindere che uno lo faccia o non lo faccia. Sì. Allora io, la prima cosa che ho fatto, dico, per togliermi anche uno sfizio, dico, beh, proviamo a guardare dal 2010 ad oggi, e ho guardato che l'INPS è aumentata del quasi 17%. Però noi come agenti, visto che abbiamo questo grandissimo peccato, abbiamo anche la fortuna di avere una seconda pensione obbligatoria, che è uno scandalo immane, ma questo dobbiamo aprire un altro capitolo, che è l'Enas Arco. Eh sì, è uno scandalo immane anche perché l'Enas Arco, è capitato più volte di parlare, insomma, ha fatto parlare molto di sé, ecco, per come è stato gestito, sì, amministrato. Quello che mi sorprende è che nessuno ci vada a fondo, perché è veramente una cosa vergognosa. Niente, loro, ma anche lì per l'Enas Arco ho provato a fare la stessa cosa. Di com'è? Anche perché lì è aumentato ed è previsto un aumento fino al 2020 delle aliquote, sì. Ma non solo delle aliquote, anche i massimali sui quali fare i calcoli. Le dico solo che dal 2010, ho preso lo stesso periodo che ho fatto il ragionamento per l'INPS, nello stesso periodo dal 2010 al 2014 l'Enas Arco è aumentato di quasi il 35%. Però 17% l'INPS e 35% l'Enas Arco. Ma non solo, è previsto l'aumento per il prossimo anno dell'Enas Arco solo 2014-2015 di quasi un ulteriore 11%. E questo è. Ma la cosa incredibile è che poi l'Enas Arco, c'è anche il problema che se non lo versi per 20 anni, per il quale poi dopo ricevi una lauta pensione di 80, 100, 120 euro più o meno al mese, se lo versi per 20 anni tutto quello che è stato versato viene perso, a meno che tu non vada a fare dei contributi volontari. Questo è riferito a chi per esempio apre una partita IVA, che ne è aperta per pochi anni perché prova a fare qualcosa e non ci riesce, e poi dopo la chiude e torna a fare il dipendente o qualcos'altro, insomma. E comunque se uno non lo paga per 20 anni, niente, ha perso tutto. Ha perso tutto, l'istituto si tiene tutti i versamenti, esatto, se uno per, come può capitare ed è capitato a tantissimi, si trova purtroppo a dover vivere interruzione di continuità della propria esperienza professionale, esatto. E ci perde tutto quello che ha pagato anche negli anni precedenti. E quindi se sommiamo a questo punto l'aliquota che lei ovviamente paga di IRPEF sul suo reddito a questi due contributi obbligatori e in aumento progressivo molto rilevante in questi 4 anni di crisi, il monte totale, diciamo così, del dovuto a diverso titolo come fiscalità generale o per la parte contributiva e previdenziale, quanto morde sul totale del suo reddito 2013? Ma arrivò quasi al 60%, quasi più o meno, 55%, 60%, perché poi dopo ci sono anche altre voci, altre cose, senza calcolare i costi fissi, perché è una cosa assurda che per una persona come me, che fa circa 35 fatture l'anno, sia obbligato per colpa della complessità di tutti questi baselli ad avere un commercialista, che io chiaramente, certo, non potendomelo permettere, sono passato in un'associazione e che mi costa 1.000 euro l'anno, cioè alla fine io per 35 fatture, ogni fattura che metto spendo 30 euro e faccio fatture anche di 150 euro. Senta, nel frattempo, in questi anni in cui abbiamo percentualmente misurato gli aumenti obbligatori contributivi, il suo fatturato e il suo reddito invece, a fronte di questi aumenti obbligatori, che tipo di andamento ha registrato? Le dico solo che se prendo l'ultimo, ho fatto un raffronto anche sull'ultimo quadrimestre, 2014 su 2013 c'è un calo del 19%, ma se faccio dal 2010 al, prendo il 2013 così, ho avuto un calo del 60%. Del 60%? Sì, sì, sì. A fronte del 60% c'è un aumento invece di obblighi fiscali spaventoso, pauroso, e guai non pagarli, perché ne sono successe per cose per dimenticanza, così mi è capitato di dover pagare su importi per fortuna non grandi delle sanzioni allucinanti, cioè per un ritardo di 12 ore del pagamento di una rata, di una tassa che dovevo pagare, che ero riuscito a rateizzare, ho ritardato a pagarla di 12 ore, ho perso prima di tutto il diritto alla rateizzazione, ma poi mi è stata applicata una sanzione del 30% del totale per questo ritardo di 12 ore di pagamento. E non c'è stato verso di fare presente agli uffici? No, perché è così, punto. Cioè, viene applicata sì, purtroppo lo so che è così che viene applicata d'ufficio, glielo chiedo solo perché magari qualcuno a casa pensa che non sia così, invece è così. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta 16:47, primi 53 secondi da Radio 24 qui da Milano. E ospite con noi Luca Baldi, agente di commercio. Vi ha fatto il conto di quanto è diminuito il suo reddito in questi anni di crisi, di quanto è aumentata la contribuzione obbligatoria sia INPS sia Enasarco, di cosa gli resta pagato, come è giusto e fino in fondo, l'aliquota IRPEF a cui è sottoposto. Gli restano quei 10.000 euro sui quali deve pagare poi i contributi obbligatori, quindi gli resta ancora meno. Allora io gli farò una domanda tra poco, nel frattempo però andiamo a vedere un po' come la pensano i nostri ascoltatori e poi con le telefonate anche sul tema del giorno, San Vittore, gli arresti, le tangenti, gli appalti, l'Expo. Vediamo un po' intanto i messaggi sul tema del giorno, cioè quello toccato da Luca Baldi, sono tutti a suo favore, perché per esempio Gabriele da Urbino ci dice: lo scandalo è che i promotori finanziari che nulla hanno a che fare con gli agenti di commercio siano costretti a pagare l'Enasarco. Lo so, è scandalo per voi, ma è uno scandalo anche per loro, visto gli aumenti che ci ha spiegato Luca. Altri ci segnalano, per esempio questo ascoltatore dice: l'INPS tratterrà tutti i contributi versati in 40 anni da mia madre, vedova, deceduta da 60 anni senza nemmeno vedere la sua prima pensione. Ecco, questa è una domanda alla quale io anni fa mi sono posto il problema. Esiste, come esistono i trattamenti di reversibilità, no? Per i superstiti, per i coniugi, una percentuale della pensione erogata nei confronti dei familiari scomparsi, classicamente la moglie sul marito, anch'io mi posso il problema, ma esiste una possibilità di trasformare una parte dei versamenti non erogati mai in termini attuariali, cioè proiettati nel tempo a favore di superstiti? Naturalmente lo Stato questo se ne è sempre guardato, e questa è una questione delicata che ci pone il nostro ascoltatore, perché secondo me non è giusta, devo dirvi la verità, non è giusta, soprattutto in un sistema nel quale poi andremo, che è quello a pieno regime della Dini, di riforma previdenziale, in cui si fa davvero la pensione contributiva e non retributiva agganciata all'ultima retribuzione, come era quella pre-95, per capire, per chi non aveva 18 anni diversamente al 95. Comunque funziona così, lo Stato prende per sé, ovviamente. Allora, altri ascoltatori: secondo l'USARCI la categoria di agenti di commercio è quella che più sta soffrendo a causa crisi, poche provvigioni, costi allucinanti, tasse sempre più alte. Quindi Luca, come vedi, il tema che hai sollevato ha purtroppo molto seguito e molto eco. Sentiamo un po' di ascoltatori sugli arresti del giorno. Cominciamo con Giampiero da Varese. Prego Giampiero. Buongiorno Oscar. Buongiorno. Il governo adesso stava facendo la campagna per dire ai cittadini: abbiate fiducia, dovete fidarvi delle istituzioni. Sì. Con questo arresto, sinceramente, il discorso qua di fidarsi dei politici è un pochettino compromesso, perché è sempre la solita storia. Adesso vabbè che è la notizia che è un ex ministro, però un ministro ha fatto anche un giuramento. No, ma figurati. Quindi comunque adesso ti stai riferendo a Scajola. Il mio problema aggiuntivo è che l'Expo è da anni prima si è detto che bisognava mettere in atto tutto ciò che era necessario per trasparenza assoluta, la prefettura, il questore, gli incontri col governo, l'associazione di imprenditori, ciò malgrado siamo gli appalti pilotati con Formigoni da una parte, vecchi politici della Prima Repubblica, primo aggregato. È incredibile, è veramente una cosa che uno dice: beh, allora l'Italia è proprio condannata. Questo è quello che mi colpisce. Lì c'è addirittura un dispositivo così rafforzato, almeno a parole, e di fatto siamo sempre lì. Io non me la posso prendere con le procure, le procure fanno il loro mestiere, qua è pazzesca la cosa. Grazie Giampiero, sentiamo Silvio da Novara. Prego Silvio, come la pensi? Ciao Oscar, Come la penso? Greganti come Grillo, bisogna dargli in mano le chiavi dell'asinara e fargliele buttare via, oppure metterli direttamente a piazzare Loreto e vediamo cosa succede. Vabbè, dai, piazzare Loreto, no, io sono per leggi che hanno sanzioni di legge, però beh, voglio dire, la reiterazione è pazzesca, questo devo dirlo. Carlo da Treviso come la pensa invece, Carlo? La penso in questo modo: ogni 127 euro che mi paga un mio cliente, me ne rimangono da 26 a 28 quando va bene, netti. Uno si chiede attualmente chi te lo fa fare, però il problema è che alternative ci sono, uno deve andare avanti per forza perché non è che se la può inventare, Carlo, o no? Sì, però mi dico una cosa, è possibile che una persona lavori tanto per avere in tasca un quinto di quello che paga il cliente? No, questa è una cosa pazzescamente ingiusta, pazzescamente non compresa dalla platea dei lavoratori dipendenti, non per colpa loro, sono soggetti a sussulto d'imposta, loro sono convinti che ovviamente gli autonomi invece facciano la bella vita, detraggano tutto quello che vogliono, hanno tutto il nero che vogliono e così via. Quando in Italia capiremo che non ci dobbiamo fare dividere e guarderemo tutti al fondo delle nostre tasche bucate, via più bucate in questi anni dallo Stato che si è preso una quota crescente di quel meno che noi avevamo, quel giorno saremo tutti più forti insieme nei confronti dello Stato. Sarà banale, ma io la penso così. E anche a Luca, a questo punto io devo fare la domanda: Luca, ma visto quel poco che ti resta, come ci diceva adesso Carlo da Treviso, vale la pena continuare ad andare avanti? Che cos'è che ti spinge ad andare avanti e continuare a fare agente di commercio? Bella domanda. Molto semplicemente, è una scelta di vita, e se io vado avanti è perché voglio avere la mia libertà, io voglio continuare. Ma ce la fai, cioè, hai una famiglia, ce la fai a tenere una famiglia? Io ho una famiglia, ho mia moglie che ha un lavoro part time e una figlia adolescente al liceo. No, non ce la faccio, cioè faccio una fatica tremenda, io ho applicato una spending review per poter saltare fuori pazzesca, tipo anche allungare il mutuo di casa di altri 5 anni quando l'avrei finito potuto di pagare fra neanche prima, un anno, certo. Cioè per dirne una, ma è quello che... Tua figlia quanti anni ha? Resistere. Tua figlia quanti anni ha? Mia figlia ha 16 anni. Posso chiederti, tua figlia ha 16 anni, che cosa ha capito di questa diminuzione di reddito di questi anni, come la prende? La prende bene perché per fortuna è una ragazza molto intelligente, non ha mai avuto dei grilli per la testa. È ovvio che si cerca nel possibile di non farglielo pesare più di tanto. Senti Luca, io posso solo dirti, siete un esempio per me e spero che molti riflettano. Ti abbraccio, fammi sapere nel tempo come va. Intanto sentiamo Nicola da Reggio Emilia. Nicola, che ne pensi degli arresti di oggi? Ecco, buonasera. Ma guardi, cosa vuole che ne pensi? Io sono un operaio metalmeccanico. Sì. La famiglia monoreddito, ho 4 figli, insomma. Sì. Lei capisce. Quindi che è dura, è molto dura. Ecco, allora, l'altro giorno ho fatto la dichiarazione dei redditi e chiaramente il primo figlio ha iniziato appena a fare qualche lavoretto, qua e là mi hanno subito tolto le 1200 euro di detrazione. Di detrazione. Sì, perché chiaramente guadagnando 1500 euro io da solo con 4 figli sono ricco per lo Stato. Lei capisce. Bravo. Che quando inizia a sentire tutte queste, scusi l'inglesismo, puttanate che accadono ancora. Nicola, me... bravo, bolle sangue. Questa questione del fisco ostile alla famiglia la riaffronteremo presto. Oggi Del Rio propone quoziente familiare alla prossima legge finanziaria. Ora stop, continuate su Radio 24, appuntamento come a domani.